Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Thank you. conjunction may be used in lieu of conversation, words will always retain their power. Words offer the means to meaning, and for those who will listen, the enunciation of truth. And the truth is, there is something terribly wrong with this country, isn't there? È la seconda parte di Eclettica e sta per dare spazio ad una grande anteprima, però prima di arrivare a quel momento vi voglio ricordare alcuni dati essenziali, ovvero sia che questa trasmissione va in onda tutti i giorni fra le 19 e le 20, che la voce che sentite è quella di Giulio Caperdoni, che risponde all'indirizzo giulio@radiorockfm.com. Esiste la lista nera, ovvero sia la possibilità di ricevere tramite mailing list la scaletta, la playlist della trasmissione settimana dopo settimana, ed esiste anche il podcasting. Questa seconda parte si è aperta con Get Well Soon da Berlino, I Sold My Hands for Food, So Please Feed Me, ed è proseguita con il duo danese di nome Wolfkin, con il pezzo che si è appena chiuso, These Are All Illusions. E la grande anteprima è legata ad un disco Constellation. Abbiamo parlato pochi giorni fa, con tristezza, della decisione dei Godspeed You Black Emperor. Ecco, alcuni membri dei Godspeed You Black Emperor sono nella formazione che sta per uscire il 25 di marzo con il suo nuovo disco. Silvermont Zion Memorial Orchestra and Tralala Band, questo è il nome per esteso della formazione canadese, che vi dicevo sta per uscire con un nuovo disco in cui va a confermare quella che è la sua tradizione, il suo approccio solito, ovvero sia pochi brani e molto lunghi. Il disco si intitolerà 13 Blues for 13 Moons, come già vi ho detto uscirà fra pochi giorni. In Eclettica c'è la possibilità di ascoltare in anteprima una versione edit di uno dei lunghi brani che compongono questo album. Si tratta di Black Waters Blow.

di Thomas Pynchon. And where once you had the freedom to object, to think and speak as you saw fit, you now have sensors and systems of surveillance coercing your conformity and suppressing your submission. We need cameras. How did this happen? Who's to blame? Well, certainly there are those who are more responsible than others, and they will be held accountable. But again, truth be told, if you're looking for the guilty, you need only look into a mirror. I know why you did it. I know you were afraid. Who wouldn't be? War, terror, disease. There were a myriad of problems which could